nascondermi, fuggi volenti, nel cielo i fulmini, nel cielo i fulmini, mi fa tremar, mi fa tremar, nel cielo i fulmini, mi fa tremar. Ui, colge la luce, dammi gli affanni, vieni congiungo a tutti i miei danni. Vorrei nascondermi, fuggir vorrei, nel cielo i fulmini, mi fan tremar, mi fan tremar, mi fan tremar, e gli affanni, tutti congiungo, tutti i miei danni. Vorrei, vorrei, vorrei nascondermi, vorrei, vorrei, vorrei fuggir, ui, colge la cera, dammi gli affanni, tutti i miei danni. Nel cielo i fulmini, nel cielo i fulmini, mi fan tremar, mi fan tremar, mi fan tremar, nel cielo i fulmini, mi fan tremar. Divengo stupida nel colpo atroce, non ho più lacrime, non ho più voce, non posso piangere, non so parlare, non ho più lacrime, non ho più voce, non posso piangere, non so parlare, non so parlare. Vorrei nascondermi, vorrei nascondermi, fuggi vorrei, dici la folla, dici la folla, mi fa tremare, mi fa tremare, mi fa tremare, mi fa tremare, mi fa tremare. Poi cogia la cera, dammi gli affanni, e ti congiuro a tutti i miei danni. Vorrei nascondermi, fuggi vorrei, nel cielo i fulmini, mi fa tremar, mi fa tremar, mi fa tremar, e ti affanni, tutti congiuro tutti i miei danni. Vorrei, vorrei, vorrei nascondermi, vorrei, vorrei, vorrei fuggi, ma cogia la cera, dammi gli affanni, e ti tutti i miei danni. Cielo fulmini, di cielo fulmini, mi fan tremar, mi fan tremar, mi fan tremar, cielo fulmini, mi fan tremar.